Before I blow those decks up. Benvenuto a tutti gli ascoltatori. C'è qualcuno che si pone alla radio a quest'ora? Il tema è perché porsi alla radio a quest'ora? Perché c'è Edith? Perché c'è della buona musica? Perché questa è una nuova radio alla quale vorrei voler bene, non so ancora se posso farlo. Beh, a giudicare dalla musica, ci si potrebbe anche stare. Benvenuti a tutti, Edith al microfono con voi, Enrico di Troia per questa stanza del nonno, e qui ci troviamo nello studio di registrazione negli anni 60 inoltrati, dove c'è un chitarrista, un cantante, un simpatico ragazzo che si chiama Michael Bloomfield, detto Mike, e diciamo che oggi una buona parte della trasmissione è dedicata a lui, Mike Bloomfield. Benvenuti. Good, I want it. Understand, I want you to turn on the electricity, cause I done killed my man. Judge, I beseeching you, judge. Why don't you turn on the electric chair? Remember that Saturday night, I put a gun on you. You commenced to scream and you commenced to fight. I said, holy Moses, what are I gonna do? Oh, judge, yeah, Mr. Judge, why don't you send me to the electric chair? I said, judge, you're not kind, Mr. Judge. Send me away from here. I'm telling you, your honor, there's something I understand. I wanna be put away for killing my man. Yeah, Mr. Judge, why don't you send me to the electric chair? Mike Bloomfield, in un disco prodotto da Al Kooper, che spesso ha suonato con lui. Abbiamo ascoltato I'm Country Boy del 64, Judge, che era questa. Accordi in studio di registrazione. Adesso andiamo ad ascoltare un brano che si chiama Hammond's Rag. Oh man, come on, get with it. La primissima esperienza di Mike Bloomfield risale ai primi anni 60, quelli che stiamo ascoltando, quando giovanissimo suona la chitarra blues nel Southside con i vecchi musicisti neri Sleepy John Estes, Roosevelt Sykes, Emmy Nixon, Big Joe Williams, Yannick Rachel. Insomma, impara tutti i segreti di queste vecchie volpi. Sentite che roba. Stupendo, Hammond Rag, Mike Bloomfield. Okay. Ancora ci sono degli aggiustamenti in sala d'incisione. Ti tengo su un palmo di mano. Right in the palm of my hand. Sit on the corner, you all alone. You be a messin' with a black hair bone. Don't you worry, can't help you none. I'm a seven son of a seven son. I don't say you don't love me. I don't say I ain't your man. You know I'm in love with you, baby. I got you in the palm of my hand. Baby, telltale all over the lane. You know I'm in love with you. I'm your hoochie, coochie man. I can love you in the morning, I can love you at night, I can make you cry. Baby, gonna feel alright. Don't say you don't love me. I don't say I ain't your man. I'm in love with you, darling. I got you in the palm of my hand. Insomma, il vecchio Mike comincia a farsi conoscere in giro suonando in questo modo, tutti lo notano, tutti lo sentono, dice come suona questo ragazzo. Ci scrive anche un libro sull'esperienza che fa con questi musicisti. Poi a un certo punto, sempre siamo intorno al 64-65, comincia a farsi conoscere, insomma, nel giro che porta la musica da pochi appassionati al grosso pubblico bianco. E quindi con il suo amico e collega Al Kooper, che è quello che poi ha curato il missaggio di questo album che stiamo ascoltando, fu scritturato come session man nel celeberrimo album di Bob Dylan, Highway 61 Revisited, con il quale ottenne una certa notorietà. E da quell'album tra poco ascolteremo qualcosa di molto interessante, ma andiamo avanti. Abbiamo sentito I Got You in the Palm of My Hand, invece adesso sentiamo I Got My Mojo Working, Mike Bloomfield. Qui di Mojo ne abbiamo già qualcuno, eh? Mojo Station, un programma dedicato al blues, da non perdere. Molti dicono da non mancare, ma da non mancare mi sembra quando si tira la freccia, no, non lo mancare, da non perdere. Oh. Yeah. I got my mojo walking, sempre da Mike Bloomfield. Chissà chi suona l'armonica a bocca. Io sono un appassionato di armonica a bocca, mi piace molto suonare l'armonica a bocca quando qualcuno suona il blues, e devo dire che qualche volta, dipende anche dal chitarrista che mi accompagna, sono abbastanza bravino, quindi chi è che si lamenta? Ah sì, questa è la nostra barca, ogni tanto cigola. Dicevamo che questo ragazzo comincia a entrare in sala d'incisione in quegli anni suonando insieme a un certo Bob Dylan. Beh, non so se avete presente quella famosa canzone che noi credevamo fosse una cosa molto carina, invece è una canzone molto triste, riferita a una ragazza che si chiama Like Rolling Stones, no? Quando ti trattano come un sassolino, no? Calciato dal piede per la strada. C'è tutta una storia intorno a questa canzone. Ma la cosa particolare è che noi adesso sentiremo la base, senza il cantato di Bob Dylan, e quindi in questo caso voi potete cimentarvi. Thank you. sono sicuro che qualcuno di voi, ripensando a Bob Dylan e a Highway 61 Resided, ha canticchiato la canzone. Vi ricordavate le parole? Io no. L'ho tradotta però per un amico, per il buon Alberto Castelli, che una sera in un certo posticino, il nostro amico Marco Garzia ha presentato una storia di questa canzone. Io mi sono provato a tradurla e finalmente ho capito che cosa significava. Stiamo ascoltando Mike Bloomfield, questa è Samarcanda Digital Network, io sono Edith. Mike Bloomfield non è mai entrato prepotentemente, diciamo, nell'immaginario musicale della gente comune. Non è stato quel chitarrista maledetto di una di quelle band che, diciamo, ancora oggi facilmente tappezzano i poster e le camerette delle nuove generazioni, quindi... E anche sugli scaffali di tanti adulti, in mezzo ai dischi, non è facile trovare dei dischi di Mike Bloomfield. O sapere magari di avere un disco dove lui suona. Mike Bloomfield non è il chitarrista che nomini per strada con l'assoluta sicurezza, dice qualcuno, che tutti ne siano a conoscenza, ma è stato uno dei chitarristi americani più importanti di tutti i tempi. E qui Bob Dylan c'è. Il brano si chiama East West. The sweet pretty things I'm betting off course. The city fathers they're trying to endorse. The reincarnation of Paul Revere's horse. For the town has no need to be nervous. The ghost of Bill Starr, she hands down her wits. Chiedo scusa, un piccolo errore di lettura. Il brano è Tombstone Blues. At the head of the Chamber of Commerce. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with a tombstone blues. The hysterical bride in the penny arcade. Screaming, she moans, I've just been made. Then sends out for the doctor who pulls down the shade and says my advice is to not let the boys in. Now the medicine man comes and he shuffles inside. He walks with a swagger and he says to the bride, stop all this weeping, swallow your pride. You will not die, it's not poison. Mama's in the factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. Well, John the Baptist, after torturing a thief, looks up at his hero, the commander-in-chief, saying, tell me, great hero, but please make it brief. Is there a hole for me to get sick in? The commander-in-chief answers him while chasing a fly, saying death to all those who would whimper and cry. And dropping a barbell, he points to the sky, saying the sun's not yellow, it's chicken. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. The king of the Philistines, his soldiers to save, puts jawbones on their tombstones and flatters the grave. Puts the Pied Pipers in prison and fattens the slaves, then sends them out to the jungle. Gypsy Davy with a blowtorch, he burns out their camps. With his faithful slave Pedro behind him, he tramps. With a fantastic collection of stamps to win friends and influence his uncle. Mama's in the factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in trouble with the tombstone. Flesh on the bone causes Galileo's math book to get thrown at Delilah, who's sitting worthlessly alone, but the tears on her cheeks are from laughter. I wish I could give Brother Bill his great thrill. I would set him in chains at the top of the hill, then send out for some pillars and Cecil B. DeMille. He could die happily ever after. Mama's in the factory and she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I am in the kitchen with Tombstone Blues. Che chitarre. Two players now rehearse around the flagpole, and the National Bank and a prophet sells roadmaps for the soul to the old folks' home and the college. I wish I could write you a melody so plain that could hold you, dear lady, from going insane, that could ease you and cool you and cease the pain of your useless and pointless knowledge. Mike Bloomfield, del quale stiamo ascoltando le esperienze musicali degli inizi, roots, alle radici. Classe 1943, cresce nella città patria del blues elettrico, cioè Chicago, accanto ai migliori musicisti dell'epoca, ma assorbendone sotto pelle note e segreti, come dicevamo prima. Il primo grande passo lo compie nel 65, appunto, quando grazie al suo amico Al Kooper viene chiamato come session man per registrare questo album che abbiamo appena sentito, di cui abbiamo sentito un brano, uno degli album più importanti della storia, Highway 61 Revisited di Bob Dylan. All'incirca nello stesso periodo, e ne sentiamo parlare in sottofondo, dà vita insieme a Paul Butterfield, di cui sta parlando Mike, alla Paul Butterfield Blues Band, una formazione di incredibili musicisti che negli anni 60 sarà una delle più stimate band del panorama americano. E andiamo a sentire la musica di questa gente. Hanno partecipato anche a un album di Muddy Waters, uno dei padri del blues. L'album si chiamava Father and Sons. E questo è il suono di questa band. Vi piacciono? Siamo partiti bene? Vai! Blues with a feeling. Blues with a feeling. That's what I have today. Blues with a feeling. That's what I have today. I've got to find my baby if it takes all night. What a lonesome feeling when you're by yourself. Yes, the one that you love yourself. What a lonesome feeling when you're by yourself. Yes, someone that you love has gone off with someone else. Blues with a Feeling, the Paul Butterfield Blues Band. Ma è stato un caso che uscendo da casa oggi mi sia imbattuto in questo quadruplo CD che si chiama Michael Bloomfield, e quindi ne ripercorre tutta la carriera, tutta la musica. Anzi, i CD sono tre e uno è un DVD, quindi c'è un filmato. Diciamo che in questo periodo, dopo aver suonato insieme a Bob Dylan, Mike Bloomfield forma questa The Paul Butterfield Blues Band che abbiamo appena ascoltato, assieme a un altro astro nascente del cosiddetto blues revival della Chicago di metà anni 60, Edwin Bishop. Poi c'è il tastierista Mark Naftalin o Naftalin, e soprattutto c'è Paul Butterfield, che appunto da cui la band prende il nome. Ma c'è un biglietto da visita che prima mi è sfuggito praticamente perché lo stavo guardando. C'è un biglietto da visita che rappresenta questo gruppo, che è un brano di 12 minuti che appunto si chiama e si chiamava East West. Questa è la The Paul Butterfield Blues Band. Molta attenzione alle chitarre, naturalmente. C'è Mike Bloomfield. Io ho un disco che si chiama Super Session, se andate a pescare magari nella vostra discoteca può darsi che c'è. E poi Mike Bloomfield. We'll be right back. ascoltando Mike Bloomfield nell'epoca in cui formò insieme a Paul Butterfield The Paul Butterfield Blues Band, e questo è un brano iconico per quel gruppo che si chiama East West, dura almeno 13 minuti e credo che noi siamo l'unica radio in questa parte del globo che ha la possibilità, il coraggio e la libertà di mandarlo in onda tutto. Butterfield Blues Band. Durante la Summer of Love del 1967 al Monterey Pop Festival, lo stesso dove Jimi Hendrix immolò alle fiamme la sua Stratocaster, Mike Bloomfield debutta con una nuova formazione, quindi finisce il periodo della The Paul Butterfly Blues Band. E questa nuova formazione si chiama Electric Flag. E l'anno successivo, praticamente dopo questa session dal vivo, registrano un disco che qualcuno dice che non dovrebbe assolutamente mancare nella collezione di chiunque. Il disco si chiama A Long Time Coming, misto tra blues, rock and roll, punte di psichedelia, e anche tanto groove, rhythm and blues. E proprio da questo album The Paul Butterfield Blues Band. E proprio da questo album, diciamo, andiamo ad ascoltare un brano che si chiama For the Dignity of Man and the destiny of the Killing Floor. I should have quit you siamo nel 1967. Stiamo seguendo attraverso la musica la carriera di Michael Bloomfield. Lo abbiamo sentito suonare con Bob Dylan, probabilmente lo sentiremo suonare con Muddy Waters. E questi sono i primi gruppi in quegli anni che lui ha formato, in questo caso una band che si chiama Electric Flag, che furono costituiti da Mike Bloomfield e Barry Goldberg nella primavera del 67, appunto, con l'intento di creare una All American Music Band, un gruppo nel cui stile ci fossero inclusi tutti i generi fondamentali della musica americana. Come abbiamo detto, in estate il gruppo debuttò al Monterey Pop Festival, lo stesso dove c'era Jimi Hendrix che incendiò la sua chitarra, e in concerto il successo fu immediato. Quindi gli Electric Flag erano una macchina poderosa in grado di destreggiarsi in differenti generi musicali, mettendo in luce le varie personalità del gruppo. Fra i primi a notare questo gruppo fu Peter Fonda, che li coinvolse nella colonna sonora di The Trip. Da noi si chiamò Il Serpente di Fuoco, un film di Roger Corman di cui fu protagonista. E insomma, con il supporto di ottimi autori e di elevate doti tecniche individuali, gli Electric Flag realizzarono nel 68 questo album A Long Time Coming, dal quale stiamo cercando di capire come suona. Anche io non l'ho mai sentito, lo sto sentendo per la prima volta insieme a voi e sto facendo delle ricerche contemporaneamente insieme a voi. Da questo stesso album ascoltiamo un altro brano che si chiama Texas. The Electric Flag. Questa è la stanza del nonno. E io sono Edith. E siete su Samarcanda Digital Network, una radio unica. Il brano che abbiamo ascoltato prima, Killing Floor, pare che fosse una cover di un certo Howling Wolf. You looked at me like I was a Ringling Brothers clown. Yes, you did. Ha! You told John Dog to bat me, babe. You told John that something's wrong. Stiamo ascoltando la musica di Mike Bloomfield attraverso le sue collaborazioni musicali. Queste sono le collaborazioni musicali degli inizi di questo ragazzo, che chissà in quanti dischi vi ritrovate a casa, vinili o CD. Qualcuno dice che questo è un disco che dovete assolutamente avere, ma insomma dipende dai gusti. Certo, se vi piace il blues. A long time coming. Il brano che abbiamo ascoltato si chiamava Texas e sta per concludersi. E invece noi continuiamo a... Siamo curiosi di sentire questa The Electric Flag dal vivo. Eccoli. C'è tutto un altro clima, eh? Il brano che abbiamo scelto si chiama Susie's Shuffle. Mike Bloomfield insieme a questo gruppo che si chiama The Electric Flag, questa volta dal vivo, e ancora dal vivo ce li andiamo ad ascoltare in un brano che si chiama Just a Little Something. Su questa compilation, su questa storica compilation, questa storia di Michael Bloomfield, c'è qualcosa come dire from his head to his heart to his hands. È una bella dedica alla sua testa, al suo cuore, alle sue mani. Evidentemente era uno che si faceva voler bene. Si divertivano così. Facciamo una jam session, facciamo un blues. Bravi. Stiamo ripercorrendo con una certa emozione la carriera musicale di Mike Bloomfield attraverso i suoi lavori, attraverso le sue collaborazioni, attraverso un album che ha messo insieme il suo amico Al Kooper. E infatti proprio Al Kooper, sempre nel 67, insieme a Stephen Stills, si ritrovano negli studi della Columbia Records di New York e hanno piena libertà di improvvisare la musica che vogliono. Bei tempi. Ed è così che viene inciso un album che si chiama Super Session, un disco, altro disco che non deve mancare nella vostra discoteca. E che dire, definire questo album è arduo, scrive chi lo commenta. C'è tanto blues, ma anche tentativi di lasciarsi andare in territori jazzistici, belle canzoni pop rock e lunghi momenti di improvvisazione libera. E questo è l'album, il brano che apre l'album si chiama Albert Shuffle, Mike Bloomfield insieme a Al Kooper. Thank you. sentite che c'è un eco sotterraneo anche dei Blues Brothers, almeno nella costruzione del brano. Albert Shuffle, finalmente Mike Bloomfield si riunisce con Al Kooper e insieme a Stephen Stills fanno quest'album dove nella facciata 1 ci sono tutti i pezzi con Al Kooper, nella facciata B tutti i pezzi con... anzi, nella facciata con Stephen Stills. E quindi l'LP va avanti e c'è un altro brano, chissà chi era alle tastiere, questo mi piacerebbe saperlo. Molto importante, perché poi dopo si scopre che magari è un personaggio a cui siamo molto legati. Il pezzo si chiama Albert Shuffle. Stiamo ripercorrendo la vita musicale di Mike Bloomfield in questa stanza del nonno, in cui è comparso fuori un disco, è caduto dalla mia libreria e ha detto: sai che c'è, oggi mando la musica di questo signore, probabilmente ce n'è bisogno. Comincia l'epoca, l'era di Super Session, un altro album che è stato poi pubblicato in varie versioni, a volte con i fiati, senza fiati. Questo è un altro pezzo molto bello, si chiama Stop. E stiamo preparando il gruppo per sentirlo dal vivo, quando hanno portato questa musica al famoso Fillmore West di New York. Qualcuno dice Fillmore East, mettetevi d'accordo, è il Fillmore West o il Fillmore East? Io sono troppo curioso. Vediamo un po' che cosa dice l'intro di Mike Bloomfield per il Fillmore East, direi io. Sì, one, two. Prova i microfoni. Now here's what this is where it's at. This is the thing of this gig, and here I'll tell you about it now. A while ago, Alan Kooper, my friend, called me on the phone and said, let's make this gig an LP in Los Angeles, and we'll jam together and we'll see what will happen. So we went and I played for one day with Alan in the studio, and I split and went back to San Francisco, where I live. And the other day, Stephen Stills played, and they put out an album called Super Session. And then Alan said, okay, that's a groovy thing. Let's play the Super Session. Let's do a session and play somewhere. So I said, all right, man. Now, this is exactly what's going into this thing, I'll tell you now. Now, we played together once on the LP session. That was the one time. And then we practiced together 3 days, the four of us. And that's John Kahn and Skip Prokop and Alan. And I've jammed with John a few times, never with Skip. Alan, I guess, has played with Skip, never with John. And we all together, we've played like 4 days. And so it's half a session, half a session, because we're going to jam, because, what the hell, how much do we know? And the other half is numbers, but I want you to know, like, this is the truth of where we're playing, so now you know where it's at. Okay. One, two, three, four. kicking down the cobblestone, looking for fun. Stiamo cercando praticamente in questo istante di entrare nel Fillmore East a sentire una intro. Hello, I want to tell you all about the nature of this super session gig here. Now, ancora parla di super session. The first super session gig was a record session that Alan called me to play on. And I came and played on it for one day and recorded half the record and left. And then Stephen recorded with Alan the other half of the record, and the record came out under the name Super Session. And at that time, Alan and I had played together once or twice in our lives, and we played on that date. Then after that, shortly after, we played a Super Session gig at Fillmore. We practiced 4 days with a band from the neighborhood. And we played 2 nights on the gig, and the third night I got insomnia and didn't come to the gig, and we didn't play. And so altogether, that means we played together around 8 times. Now comes this gig, and this gig, we came to New York a few days ago, and everyone, well not everyone, but 2 of us had the flu, and we practiced. And the musicians on this job are Jerry Dramont's playing bass, and John Cressy is playing drums, and Paul Harris is playing piano. And we're playing, and this is the nature of this super session, and so now we're going to play. It's a gas for us to bring on Michael Bloomfield, Al Kooper, and their friends. Purtroppo i grandi successi, come quelli di Mike Bloomfield, sono a volte anche delle prigioni artistiche, perché Bloomfield non riesce a scrollarsi di dosso questa immagine del chitarrista di Super Session, di questo album, e ne soffre moltissimo. Si lancia nel mondo acustico e una parentesi musicale lo porta anche a collaborare con musicisti italiani, con l'armonicista Fabio Treves. Ma al contempo, come avete sentito anche dalla voce, è dipendente dalla droga, e questo lo porta alla morte per overdose nel 1981. Ma torniamo alla zona dal vivo interessante. Qui siamo al Fillmore East, in un album dove questi nastri erano praticamente ancora così, non erano mai stati pubblicati. Nel 2003 esce queste incisioni che erano inedite, e qui c'è una curiosità, perché sul palco viene presentato un giovane musicista non molto conosciuto ancora, che si chiama Johnny Winter, e la sua presentazione è da brividi. Sentiamo. Thank you. We got some people sitting in tonight. Hey, listen, now dig this. Now, hold on. Now, dig this, man. We got a cat sitting in, a cat that I met, oh, man, a long time ago when I was playing, like, twist joints. And this cat was on the road. He was playing in Chicago. He's from Texas. And, man, this is the baddest motherfucker, man. I mean, there's these people that are going to take over. So I figure you can say that. So dig, man. A cat coming out. His name is Johnny Winters. You can make him feel a little better than that. This cat can play. Eccoli con Johnny Winter. It's my own forward. Questa è Samarcanda Digital Network. La stanza del nonno. Edit al microfono con voi. Oggi dedicato a un musicista che si chiama Mike Bloomfield. Insieme ad Al Cooper. Nastri tratti da un concerto bellissimo che si sente molto bene. The Lost Concert Tapes. December 13, 1968. Ma guarda un po'. giornata, puntata dedicata alla musica di Mike Bloomfield, che stiamo ascoltando dal vivo al Fillmore in un teatro pazzesco. Ecco l'altro chitarrista, è stato presentato Johnny Winter insieme ad Al Cooper. Nastri che non erano stati pubblicati fino al 2002. E comunque dicevamo che il vecchio Bloomfield, ma sentiamoci questa solo. Successo misterioso quello di Mike Bloomfield nell'81 per overdose. Sono molte le voci che lo vorrebbero morto durante una festa privata e poi trasportato e abbandonato in auto in altro luogo. Il suono della sua Gibson Les Paul è tra i riferimenti che si contano sulle dita di una mano per questo strumento. Altrettanto amore lo dimostra per la Fender Telecaster. Uno stile mai scontato, sempre fluido. Diciamo che è stato un esempio per tanti chitarristi. Molto più di quanto sembri. Se volete approfondire la vita di questo signore, di questo Mike Bloomfield, di questo musicista, c'è un film che potete trovare e si chiama appunto From His Head to His Heart to His Hands. Si chiama Sweet Blues, un DVD sul quale potete anche cercare delle cose, vederlo dal vivo, suonare di persona. Thank you. Bloomfield, qui c'era anche Johnny Winter e Al Cooper dal vivo al Fillmore East, un teatro dove hanno suonato praticamente tutti e hanno suonato alla grande. Bene, vorrei lasciarvi con un brano che abbiamo sentito prima. Io avrei scelto un brano che si chiama invece That's Alright Mama. Mike Bloomfield, abbiamo ripercorso la sua vita, abbiamo ripercorso la sua vita musicale in pratica. L'abbiamo sentito con i primi gruppi, con le prime esperienze, con l'album, con la base dell'album, senza il canto di Bob Dylan di Highway 61 Revisited. Mamma mia, che c'è qui sotto. nacque nel 1943 a Chicago. Ieri, per esempio, è stata una giornata in cui ho ascoltato tutto il giorno Jimi Hendrix, perché... Ma finiamo di parlare di Mike Bloomfield. L'abbiamo ascoltato con Al Cooper, l'abbiamo ascoltato con i primi gruppi che ha formato, il Paul Butterfield Blues Band. Non l'abbiamo ascoltato con Muddy Waters, con gli Electric Flag e poi con Al Cooper dal vivo. La cosa interessante di questo pezzo di Jimi Hendrix invece in Voodoo Child, siamo passati da Mike Bloomfield, è questo signore che sta alle tastiere. È un altro che ha fatto la storia. Molto amico di Eric Clapton. Lord, I swear the moon turned a fire red. Steve Winwood. Ieri ho passato un pomeriggio intero ad ascoltare tutto quello che avevo in casa di Jimi Hendrix per capire perché Jimi Hendrix. Non è che mi sia bastato un pomeriggio per capire, però intanto ho ripercorso alcune incisioni per capire quali fossero quelle costruite da lui, come questa di Electric Ladyland, un album doppio che va ascoltato tutto per intero dall'inizio alla fine. Dove il suo perfezionismo è arrivato al massimo, ma questo era uno studio pieno di gente in quel momento. E sentite Steve Winwood, com'è perfettamente in linea con quel momento, con quella musica, con quell'istante. Anche il batterista. arrows are made of desire. From far away is Jupiter's softer mind. Say my arrows are made of desire. Di sicuro Mitch Mitchell, Steve Winwood all'organo, Jimi Hendrix alla chitarra. Beh, era la chiusura più... non lo so, mi sembrava interessante e assolutamente in linea sentire questo brano. Jimi Hendrix, faremo una trasmissione su Jimi Hendrix, perché io ho bisogno di saperne di più, di sapere tutto quello che è successo, sapere come è diventato Jimi Hendrix, di conoscere le incisioni e i momenti più interessanti, di capire qualcosa che ancora mi manca di aver capito nonostante tutti questi anni. E sono contenti i musicisti che sono in studio, a quelli che sarebbero diventati gli Electric Ladyland di Jimi Hendrix. C'era molta gente, addirittura per il fatto che ci fosse tutta questa gente, uno dei produttori musicali se ne andò. Non era molto d'accordo che ci fosse tutta questa gente, ma era il momento storico, era il momento dell'amore libero, era il momento di tante situazioni che partivano lì dagli Stati Uniti, e ancora siamo Stati Uniti, una parte degli Stati Uniti che è straordinaria, che ci dona musicisti particolarmente straordinari come questo, Stevie Wonder. Meraviglioso. I wish. Grande, spero che la stanza del nonno sia stata di vostro gradimento. Abbiamo ancora qualche minuto. Beh, io, dopo aver fatto un bel po' di ore di blues, no, ore no, però insomma, vabbè, siamo stati insieme a Mike Bloomfield. Edith si è sforzato a parlare pochissimo sulla musica, a solo a darvi qualche informazione tratta dai brani che ho trovato sul web. diciamo che quello che c'è su Wpedia non è sempre interessante, no? Ti dicono le classifiche, le cose, eccetera, a me interessa poco. Invece molto spesso si trovano, che ne so, on the rock, si trovano dei articoli fatti da appassionati italiani che sono molto belli. Quello che ho letto oggi è tratto da Music Off, li ringrazio per aver utilizzato le loro scritture. Noi siamo Samarcanda Digital Network, se volete venire qui a presentare la vostra musica fatelo quando volete, le nostre porte sono abbastanza aperte. È che è difficile bussare. Perché è difficile bussare? No, vabbè, hai ricominciato a parlare sulla musica? Sì, io a un certo punto lo devo fare, non posso farne a meno. Dunque, volevo lasciarvi con due novità, una abbastanza stramba. Lui si chiama Alan Sparhawk. Da un album che si chiama We Trample by Turtles, il brano che ho scelto è Not Broken. One of these days I'm gonna learn. Something I probably already heard. So turn on the bright lights, turn up the drum mic, turn up the probably I don't. Bene, era interessante questo Not Broken, c'era anche una cantante che volevo farvi ascoltare. Ultimo brano di oggi, un gruppo che si chiama Poor Creature. Un brano strano, eh? Molto strano. Chiudiamo con questo, io vi saluto. Il brano si chiama The Whole Town Knows. Buco? Il buco che conosci della città? Un album di quest'anno, del 25, che si chiama Smiles Now. Bene, vi lascio con queste due novità. Io vi ringrazio di essere stati con noi, vi ringrazio di essere stati con Samarcanda Digital Network.